Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera abbiamo ospite Vittorio Volpi. Buonasera dottor Volpi. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Vittorio Volpi è presidente della società di consulenza Parallel Consulting, ma soprattutto è stato per 30 anni dirigente di grandi banche in Giappone e anche sulla base di questa esperienza ha scritto insieme a Franco Mazzei il libro La rivincita della mano visibile, il modello economico asiatico e l'Occidente, edito da Università Bocconi Editore. Un libro in cui si racconta la storia e si raccontano come mai questi colossi asiatici, la Cina e il Giappone, ma anche colossi industriali come la Corea o altri paesi che stanno sicuramente crescendo come il Vietnam, hanno imboccato la strada della crescita, di una crescita tumultuosa negli ultimi anni, e appunto parla di questo modello economico. Allora, dottor Volpi, cosa c'è alla base di questo modello economico che voi mettete in risalto in questo libro? Prima di tutto, perché abbiamo scritto il libro? Lo abbiamo scritto perché qui in Occidente, con la nostra cultura aristotelica del tertium non datur, in pratica siamo, il pendolo è oscillato tre volte da un estremo all'altro nel periodo liberale pre-Keynes, poi lo Stato e l'intervento dello Stato, le politiche anticicliche di Keynes, poi il neoliberalismo degli anni 70, il pendolo è andato stato minimo, e poi per tornare per recuperare da questa crisi ancora il pendolo un'altra volta a 180 gradi, grande intervento dello Stato, debito pubblico. E ci siamo domandati come mai questo non succede nei paesi asiatici. Il premio Nobel dell'economia Mike Spence ci ha fatto sottolineare che negli ultimi 20 anni ci sono solo 11 paesi al mondo che sono cresciuti al di sopra del 7%. Di questi 11, 8 stanno in Asia. Quindi abbiamo cercato, sulla base delle nostre esperienze, dal professor Mazzei e mia, di andare in analisi e vedere come mai, cosa c'è di diverso. Ecco, e avete messo in luce il fatto che c'è una realtà comune, quella che voi chiamate la civiltà sinica, cioè una civiltà basata sul confucianesimo, su una religione che è diventata una cultura, un modo di intendere la vita. Esattamente, il mondo confuciano sostanzialmente si occupa molto poco del metafisico e si occupa moltissimo invece del terreno, e quindi di portare armonia nei rapporti sociali sostanzialmente. Quindi il confucianesimo è un codice morale che è partito si è sviluppato in Cina e poi ha preso, soprattutto attraverso la cultura ideogrammatica, che anziché trasmettere solo dei suoni, trasmette qualcosa di visivo, diciamo così, si è fatta comprare la sua cultura da una serie di paesi dell'area, fra i quali in modo prominente il Giappone, la Corea, naturalmente Taiwan, Hong Kong, Singapore, e ovviamente la diaspora cinese, che è molto influente in tutto il sud-est Asia. Questo cosa ha creato? Ha creato una cultura che è agli antipodi del nostro mondo aristotelico, perché è una cultura del e una cultura che non è del o. Quindi Stato e mercato, Dio e l'uomo, la natura e l'uomo, quindi un rapporto visto non in modo conflittuale come siamo abituati a fare qui in Occidente, e ne paghiamo un grande prezzo, perché questi tre grandi cambiamenti storici che abbiamo avuto nell'ultimo secolo dimostrano quanto sia pericoloso essere radicali nel modo di ragionare: o è bianco o è rosso, o è Dio o è l'uomo, ecco, o è l'uomo e la natura. Noi pensiamo in un certo profilo che sia quasi impossibile mettere insieme il libero mercato con una democrazia che non c'è, cioè con un regime autoritario, quasi appunto dittatoriale come quello in fondo del Partito Comunista Cinese. Invece questo schema di concepire la realtà in Cina non esiste. Esatto, lo ha scoperto, non l'abbiamo scoperto noi sicuramente, ma lo ha scoperto uno studioso che cercava di capire come mai i comportamenti del Giappone negli anni virtuosi, soprattutto dagli anni 55 agli anni 90, fosse un paese che sovvertiva quelli che erano i canoni dell'economia. Questo era Chalmers Johnson, uno studioso dell'Asia, che messe a punto alla fine e diede una spiegazione col modello dello stato sviluppistico. E che cos'è lo stato sviluppistico? È uno stato sostanzialmente dove Stato e mercato lavorano in armonia. E il prototipo è stato il Giappone, dove la mano visibile soprattutto del allora famoso Ministero dell'Industria e del Commercio Internazionale, il MITI, e poi tutta l'orchestra giapponese della burocrazia suonava in totale armonia e sintonia con il mondo del business. E questo ha contribuito a fare del Giappone un paese che ha raggiunto dei livelli di sviluppo economico e sociale straordinari. Ecco, questo è il senso anche del titolo, La rivincita della mano visibile, di questo libro, lo ricordo, di Vittorio Volpi, che abbiamo qui con noi, di Franco Mazzei. Ma quindi lei in un certo senso vede molto vicine le esperienze del Giappone e della Cina, viste un po' da lontano sembrano due paesi che sono diversi come regimi politici, come cultura, come identità, invece secondo lei sono molto simili? Diciamo, la base culturale è la stessa, è una base culturale che è appunto diretta da un codice etico di comportamento che privilegia la comunità verso l'individuo. Più si va a oriente, più la figura dell'individuo si sfuma e quasi scompare, ed è più l'etica che il comportamento. Possiamo dire, come ha scritto la sociologa Ruth Benedict, che esistono dei mondi dove governa il peccato e dei mondi invece dove governa, chiamiamola, l'etica. Il senso della colpa e il senso del peccato sono cose diverse. Il peccato arriva da un concetto metafisico ed è normalmente una religione che ci dice cose bene e cose male. Nel loro mondo invece è l'opinione pubblica, l'etica pubblica. Quindi che la dice vergogna. La vergogna è veramente la condanna che un individuo, una società, un'azienda deve affrontare quando fa qualcosa che non è conforme con quelli che sono i dettami della comunità. E questo ha formato una base, un humus, sulla quale si sono sviluppate le società del mondo confuciano, che hanno ovviamente, come lei dice, caratteristiche diverse, non potrebbero essere diversamente, perché vengono da esperienze diverse. Il Giappone fu bravissimo nel XIX secolo ad evitare il colonialismo, perché esso stesso diventò impero coloniale, mentre la Cina e l'India, per la loro cultura universalistica e non particolaristica come il Giappone, la Cina, ricordo, è stata due volte dominata da culture diverse, dai mongoli nel XIV certo. secolo e dai mancesi dal 1648 al 1911, perché queste popolazioni che venivano dal nord o dal nord-est accettarono la cultura confuciana. Quindi i cinesi accettano, si può diventare cinesi, non si diventa giapponesi. Ed è per questo che il Giappone scappò dalla morsa del colonialismo, mentre la Cina ci cadde e purtroppo pagò un prezzo molto elevato per un secolo. Ecco, come vede in prospettiva i rapporti all'interno di questo complesso comunque mondo asiatico? L'India, abbiamo ricordato, la Cina e il Giappone da una parte, sono tutte potenze che sono già espresse, perché poi la Cina è già una potenza in atto, ha superato il Giappone a livello di prodotto interno lordo e avendo 13 volte la popolazione del Giappone sicuramente farà dei grandi balzi in avanti ancora nel futuro. Ma come vede il futuro, proprio il rapporto poi con le nostre realtà, con l'Occidente? Devo dire che in realtà siamo in presenza di un'area molto pragmatica che guarda bada al sodo. In realtà anche in questi giorni abbiamo vissuto il conflitto di una nave da pesca, un peschereggio sequestrato dai giapponesi e tutto una serie di reazioni, incidenti diplomatici, di reazioni anche pubbliche da parte cinese, che potrebbero far pensare a due paesi fortemente ostili. In realtà poi, se uno va a vedere l'atto pratico, si osserva che i partner commerciali numero uno al mondo sono Cina e Giappone, scambiano al di là di 300 miliardi all'anno, e tutti vedono che il Giappone ha imparato dalla curva di Smiley in economia ad andare sempre più a valore aggiunto. È una società diversa. Il Giappone è un paese dove la popolazione, il reddito pro capite medio $38,000, la Cina è un decimo di questo. Quindi è vero, sono due economie della stessa dimensione oggi, ma i giapponesi la pizza la mangiano di 4.500 miliardi di dollari, ne mangiano in 130 milioni, in Cina con 1 miliardo e 340 milioni. Stiamo parlando di livelli diversi. I due paesi hanno bisogno reciprocamente. Noi abbiamo bisogno di entrambi. E noi abbiamo bisogno di entrambi e abbiamo bisogno anche di stabilire un buon rapporto e non di guardare sempre a questi paesi qui con molta ostilità come stiamo osservando qui in Europa. Bisogna capire che le motivazioni di questi paesi sono molto diverse. Quindi da un profilo politico possiamo dire che la situazione va verso un pragmatismo stabile. Stiamo in conclusione della nostra conversazione. Che consigli potrebbe dare a un imprenditore che guarda ovviamente necessariamente verso questi paesi? La Cina ha ancora grandi potenzialità. Il consiglio è di dire a tutti i nostri giovani: andate verso l'Asia. La mela del mondo economico è divisa in due, 50-50, e probabilmente saremo 60-40 fra pochi anni. E quindi noi dobbiamo imparare, dobbiamo smetterla di guardare alla Cina, al Giappone come, diciamo, realtà virtuali, ma di considerare che in realtà sono in mezzo a noi e che con loro dovremo vivere nel prossimo secolo. E saranno anche la possibilità, come mercato crescente, di risolvere questi problemi di una crisi che ha creato appunto il sistema finanziario e che a fatica stiamo cercando di uscire in questa fase. Assolutamente sì. Grazie professor Volpi, grazie di essere stato con noi questa sera. Ricordiamo, ha scritto il libro con Franco Mazzei, La rivincita della mano visibile, il modello economico asiatico e l'Occidente. L'editore è l'Università Bocconi, le pagine sono quasi 300, il costo è di 16 euro. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Peter Bascapè in regia, ad Anita Panizza in redazione. L'appuntamento è per settimana prossima.